America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. When I got onto the stage, I met this very spirited fellow who claimed to be Mitt Romney. But it couldn't have been Mitt Romney. Barack Obama, l'avete sentito? Più aggressivo. Beh, qualcuno dice avrebbe fatto meglio ad esserlo durante il dibattito. A un certo punto, in un comizio che ha fatto ieri mattina a Denver, ha detto, ma chi era quello sul palco? Perché io proprio non lo riconoscevo. Ma chi era? Era Mitt Romney. Come dire, Romney cambia le sue posizioni, magari flip, flop. E dunque il presidente che ha cercato di passare al contrattacco. Purtroppo, come ha intitolato il Huffington Post, lo ha fatto con circa 14 ore di ritardo. Non se ne sono accorti in molti e la verità è che dopo il dibattito difficile, duro, dopo la brutta figura che il presidente Barack Obama ha fatto nel confronto con Mitt Romney, beh, insomma, il giorno dopo si riflette su che impatto ci sarà sulla sua campagna elettorale. Riuscirà a riprendersi? Come andranno i sondaggi? Ci sono stati tra l'altro dei sondaggi che già danno Mitt Romney in leggero recupero. Obama tiene la sua posizione di vantaggio, ma se prima c'era per esempio un distacco di 7 punti, a questo punto il distacco diventa di 4. Ecco, io con me ai microfoni di America 24 Vittorio Zucconi, che ha seguito naturalmente come tutti il dibattito dell'altra sera. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi, buongiorno a te Mario. Ecco Vittorio, ci sei rimasto male, sorpreso, colpito? Che reazione hai avuto quando questo dibattito prendeva la piega che ha preso? Incredulità, ero incredulo a vedere la passività, quasi la rassegnazione di Barack Obama, del presidente, di fronte agli attacchi, al comizio, come è giusto che sia, di quell'altro. E il fatto che, come dicevi tu prima, reagisca a 14 ore di distanza con un discorso preparato, mi ricorda quello che i francesi chiamano l'esprit de l'escalier, cioè dopo che hai finito di parlare con una persona, mentre te ne stai andando e scendi le scale, dici accidenti, avrei dovuto dirgli questo, avrei dovuto dirgli quell'altro, ma è troppo tardi. Oramai il fatto è avvenuto e soprattutto è avvenuta una cosa che non credo che i prossimi due dibattiti, quello fra 10 giorni e poi l'ultimo prima delle elezioni, avranno 58 milioni di ascolti come secondo la Nielsen ha avuto quello di mercoledì sera. Ne avranno sicuramente di meno. E fare i comizi, sì, i comizi servono per quei 2-3 milioni che guardano le televisioni via cavo, ma non per il grande pubblico. Insomma, è il classico caso che non hai una seconda chance di fare una prima impressione. La prima impressione è stata pessima. Ecco, però ricostruiamo, perché qui c'è un po' una tendenza all'understatement, perché anche nel discorso della convention di Charlotte Barack Obama ha un po' deluso, non ha fatto un discorso così, diciamo, il suo discorso. E l'idea, ci spiegarono poi i vari strateghi del presidente, era che insomma lui è il presidente, quindi deve avere un atteggiamento un po' più distaccato, deve cambiare il suo modo di presentarsi, di portarsi davanti al pubblico, non più aggressivo che galvanizza la folla, ma più distaccato, più riflessivo. Però al di là della strategia il dubbio viene, lo hai accennato tu poco fa. Obama, con un discorso scritto e ben coreografato, è bravissimo. Senza il discorso, beh, forse fa male. Allora, abbiamo visto il vero Barack Obama l'altra sera? C'è un Barack Obama vuoto o un Barack Obama che ha scelto di percorrere quella strada per una strategia? Barack Obama non è mai stato, e ce lo ricordiamo perché lo vedemmo 4 anni fa nelle primarie democratiche contro la Clinton e poi nei dibattiti con McCain, un grande duellante. Lui non è al meglio quando ha la sfida testa a testa. Tu citavi il discorso alla convention di Charlotte, ma lì parlava da solo e quindi è diverso parlare quando c'è uno di fronte che ti ribatte e ti controbatte. Se hanno scommesso sull'understatement, cioè sulla, diciamo, tenerlo a bagnomaria, mi ricordano quegli allenatori di certe tragiche squadre italiane del passato che dicevano ci basta il pareggio, ci qualifichiamo con lo 0-0. Sì, può essere una buona idea, però se a 2-3 minuti dalla fine, come siamo oramai, manca una frazione del tempo di gioco, l'altra squadra ti fa un gol e poi diventa molto difficile pareggiare o addirittura rimontare. Io ho l'impressione che tutto quello che dicono gli spinners, cioè quelli che ti spiegano poi dopo come gira la lavatrice, in realtà stiano giustificando qualcosa che neanche loro sanno bene come giustificare. Probabilmente erano convinti di avere già vinto e di non dover incassare gol. Ma c'è un piccolo dettaglio che dimentichiamo, che Obama ha bisogno di mobilitare, di sensibilizzare, di entusiasmare la propria base, perché se vanno a votare soltanto i fedelissimi, lui perde le elezioni, perché 4 anni fa vinse grazie alla mobilitazione di latinos, di giovani, di donne. Se gli manca questa capacità di galvanizzare, lui rischia di perdere le elezioni. Lui ha bisogno di guardarsi intorno, e riguardarsi la convention di cui tu parlavi e capire qual è il suo modello. È il modello Clinton, però Obama non è Clinton. In questo contesto, tu prima hai detto rischia di perdere, ma rischia di perdere davvero oppure questo è stato un incidente di percorso? Allora, in una situazione economica come questa, con la disoccupazione oltre l'8%, oggi venerdì usciranno i nuovi dati che saranno forse più importanti delle chiacchiere nei dibattiti o degli spin che danno i commentatori. Un'economia che langue, sì certo, l'avessimo in Italia strapperemo bottiglie di champagne, però il tasso di crescita americano è considerato molto anemico, le aziende non assumono, le banche non prestano, eccetera, eccetera. In una situazione come questa non ci dovrebbe essere corsa. Il fatto che Obama comunque fosse lievemente in vantaggio probabilmente è quello che lo ha paralizzato, il timore di perdere la partita. Quando hai paura di perdere, rischi di perdere. Naturalmente non dimentichiamo, come dici giustamente tu, nessun colpo del KO è stato dato. Obama non è al tappeto per 10 secondi. Questo è soltanto il primo di un incontro su 3 riprese. Ne avremo ancora 2. Però le altre avranno meno ascolti, meno spettatori, ci saranno meno occasioni di restituire il colpo. Obama ha dato l'impressione quasi di non volersi battere. Quello che deve fare un presidente, soprattutto con un partito, diciamo, di sinistra, ammesso che lo si possa dire, è quella che veniva chiamata una volta the vision thing, deve dire che visione ha dell'America, come lui vede l'America nei prossimi 4 anni, non se il 5%, il 4% ci toglieranno una parte delle sovvenzioni, quelle sono cose da contabili che entrano all'orecchio e escono dall'altro. Lui deve dare la visione che Barack Obama ha per i futuri 4 anni dell'America, non mettersi a fare il professore di legge o il contabile, che l'America non vota per professori o per contabili, neanche in Italia, ma noi neanche abbiamo avuto la possibilità di farlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo una lunga attesa e non poche polemiche, il Barclays Center ha finalmente aperto i battenti a Brooklyn, il nuovo palazzetto dello sport, un'arena da 19.000 posti a sedere. Ha inaugurato la stagione con un concerto di Jay-Z che ha registrato il tutto esaurito. Di Jay-Z, Run This Town. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!